io parto dal fatto che il movimento LGBT nel suo complesso, io credo che abbia un fortissimo dovere mai inevaso, per quello che io ho visto negli ultimi 15, anche qualcosa di più anni in movimento. E cioè credo che abbia il dovere dell'antisessismo. E il movimento LGBT, a mio parere, non è mai stato antisessista. Non si è mai posto il problema dell'antisessismo, non si è mai posto il problema del sessismo. E non sto parlando ovviamente delle singolarità, cioè delle singole persone, dei singoli gay, dei singoli esponenti, che ovviamente in questa sala per esempio ci sono autorevoli esponenti con cui io mi fregio di avere grandi, insomma, collaborazioni politiche, progetti insieme eccetera, però credo che il movimento nel suo complesso questo problema non se lo sia mai posto. E questo, al di là del fatto che rende sempre molto altalenante la presenza lesbica all'interno del movimento LGBT, perché di fatto è così, è sempre, al di là della visibilità, è sempre uno starci e non starci, un entrare o un uscire, un esserci o un non esserci, e questo a mio parere è una diretta conseguenza di questa mancata assunzione dell'antisessismo da parte del movimento LGBT. Oltre a questo, io credo anche molto banalmente che il movimento sia meno efficace non facendosi carico dell'antisessismo, perché un movimento che vuole lavorare per rendere per costruire un altro mondo dove lesbiche, gay e trans possano avere uno spazio diverso, se non parte dall'abbattere il sistema di potere che noi chiamiamo eterosistema e che vede un sesso subalterno all'altro, di fatto non può essere efficace. Questo è quello che io penso, e credo che noi ce lo dovremmo ricordare sempre. Porto a conferma di quello che io penso un aneddoto che è avvenuto in questa stanza non tanto tempo fa, a una delle riunioni più partecipate nelle quali poi scrivemmo il documento Roma Pride 2010, noi non ci saremo Roma come si chiama, uno dei più partecipati, c'era tanta gente, io provai per due volte a fare una provocazione, non dicendo faccio una provocazione, ma dicendo nel mio intervento il nostro movimento non è un movimento antisessista, e nessuno mi ha risposto. E nessuno mi ha risposto perché evidentemente non era un argomento che suscitava niente, no? Io pensavo che suscitasse almeno un'indignazione di forma, invece non suscitò assolutamente niente questa mia affermazione. Questo appunto, dicevo prima, questa mancata assunzione dell'antisessismo fa sì che la componente lesbica molto spesso abbia comportamenti, diciamo, particolari all'interno del movimento. Lasciamo perdere per un attimo, poi ci torneremo, tutta la parte separatista del movimento, ma la parte invece non separatista, al tempo ci definivamo per opposizione sostanzialmente, oggi fortunatamente questa cosa è un po' scivolata via. Da una parte o la parte silente e molto assimilata di realtà miste intendo con i gay sostanzialmente, oppure una componente appunto che è spesso sfuggente, cioè non c'è, e spesso svolge il ruolo dell'isterica, no? Di quella che fa la piazzata nell'assemblea, di quella che sbatte la porta e se ne va, di quella che si... che è esattamente la situazione in cui le donne sono messe nel mondo eteropatriarcale che noi andiamo a contrastare, no? Quello che in cui viene completamente cancellata, non ha nessuno spazio, nessuno ti ascolta, quando ti incazzi ti dicono vabbè, ma sei isterica. Questo succede sempre anche nei nostri movimenti sostanzialmente. Quindi insomma anche no, cioè, esiste tutto un frasario molto comune per esempio sulle lesbiche, perché le lesbiche non sono autironiche, le lesbiche sono isteriche, le lesbiche sono scontrose, non sono divertenti, le lesbiche non sono le lesbiche non sono divertenti, le lesbiche sono noiose, le lesbiche sono... Non si lavano, non si lavano. possiamo fare. No, eccetera, eccetera. E tutto ciò dipende semplicemente dalla mancata assunzione dell'antisessismo da parte del movimento. Perché io vi assicuro che le lesbiche, in mancata di senza gli uomini, sono altra cosa, parlano di sesso, sono molto erotiche, sono divertenti e possono essere anche molto noiose e molto, cioè, come tanti maschi. Però ecco, pensateci. Detto questo, per esempio, una piccola conseguenza di questo, cioè, perché le cose devono iniziare da dalla parte affrontata, non è che si possono affrontare nella sua totalità. Una cosa su cui dovremmo essere, perché è veramente banale da fare, un pochino più attenti, parlo al maschile non in maniera, cioè non per caso, nel portarla avanti, è quello del linguaggio sessuale, cioè, almeno ricordarci di non scrivere al maschile, e questo peraltro non riguarda nemmeno solo le lesbiche, il fatto che non si debba scrivere solo al maschile, e il fatto di usare la parola lesbica. Noi non ci definiamo omosessuali e quindi non ci definite omosessuali, per favore. E nel senso che qualcuna magari vuole essere definita in un altro modo, lo dice, ma esistono una buona parte del movimento che vuole essere definita lesbica. Omosessuale non è la sintesi di gay e lesbica, perché noi non vogliamo essere sintetizzate con nessuno, tantomeno con dei maschi, permetteteci di chiamarvi così. Accettiamo con notevole sforzo. E poi ogni tanto si può anche imparare qualcosa in più. Qualcosa in più, una parte del movimento, quella di cui io mi fregio, a cui mi fregio d'appartenere, cioè quella parte che viene tacciata di antagonismo e che invece si autodichiara antagonista perché non ci vede veramente niente di male dietro, questo passo l'ha fatto a mio parere fruttuosamente, cioè quello di imparare a dedurre alcune pratiche dalla pratica femminista, che poi la pratica lesbica, eccetera. Per esempio, banalmente, quella del confronto orizzontale, del non votare, e il tutto assumendo, diciamo, come dato di partenza il rifiuto del concetto di rappresentanza, e con questo si torna a quello che diceva ieri Corpora sulla questione della delega, eccetera, eccetera. Su questo io mi voglio soffermare un po', perché diciamo che gran parte del movimento lesbico italiano e anche di gran parte del mondo, e per dire gran parte del mondo mi riferisco in particolare per esempio al Sud America, dove c'è un movimento lesbico molto importante, molto radicale, molto diffuso, che riesce a fare delle cose che per noi sono impensabili, tipo un incontro continentale ogni due anni, mentre per esempio il Nord Europa non è così, però insomma non è che il mondo è il Nord Europa e gli Stati Uniti, insomma esistono anche altre parti del mondo, e fra l'altro parlano spagnolo, quindi è più facile, ma insomma a parte questo, quello che volevo dire è che gran parte del movimento lesbico, diciamo che lo possiamo collocare in quel settore che viene definito lesbismo radicale sostanzialmente, che è, almeno le sudamericane si definiscono così, in Italia si parla di separatismo, in Francia invece si parla di lesbismo radicale, ma sostanzialmente poi è quella galassia che si rifà a alcuni pensieri di cui alcuni ha già citato Vittoria, quindi Wittig, Adrienne Rich, Audre Lorde, eccetera, eccetera, e lesbismo radicale, che sostanzialmente pone nella pratica come primo, io direi, punto, la non rappresentabilità. Cioè nessuno di questi movimenti lesbici pensa che esista la possibilità di votare una rappresentante delle lesbiche o votare tre rappresentanti delle lesbiche, non sta in questo concetto, in questa pratica di movimento. Questo ovviamente rende questo movimento invisibile nei media, Però riflettiamoci un attimo su cosa vuol dire visibile e invisibile. Nello sfascio completo del movimento LGBT, perché io credo che più o meno stiamo vivendo questo, insomma non è che abbiamo grandi spazi, grandi eccetera eccetera, nello sfascio completo l'anno scorso viene organizzata a Roma una 5 giorni lesbica e vede la presenza di 4.000 lesbiche. 4.000 lesbiche paganti, quindi le potevamo contare. 4.000 ingressi, diciamo che poi c'era chi entrava e usciva eccetera, quindi magari sono state 3.000, però sono tante, a una 5 giorni dove il fulcro non è la discoteca ma sono dibattiti, incontri, confronti, produzione culturale eccetera eccetera. Quella 5 giorni è apparsa in un articolo, uno, su Liberazione, scritto da una compagna, peraltro lesbica, che era presente alla 5 giorni. Per il resto per la stampa non è esistita, per la televisione non è esistita, per chi l'ha organizzata non si è preoccupata minimamente di questo fatto che non fosse sulla stampa, non è stato fatto nemmeno un comunicato stampa, credo. E, allora, però, la modalità orizzontale, il non costruire tutto in funzione di una rappresentanza istituzionale, il non puntare tutto sui media, ha fatto sì che nel 2010 questa parte del movimento lesbico sia riuscita a costruire una cosa che ha portato 3.000 lesbiche almeno là dentro. Allora ci dobbiamo pensare, cioè nel senso, non è che puntiamo troppo come movimento LGBT sulla sull'essere rappresentabili dalla stampa, su porsi il problema di rappresentanze istituzionali e su essere visibili virtualmente, e ci dimentichiamo invece della costruzione di percorsi che poi portino davvero corpi LGBT a far politica insieme. Io questo lo butto lì come dato di riflessione che a mio parere dal movimento lesbico potremmo assumere. Fra l'altro, un po' in contraddizione con quello che diceva Vittoria, anche sulla visibilità delle lesbiche, sì, all'inizio degli anni 90 c'era Graziella sempre alla televisione, al Pride del 94, il primo Pride che c'è stato a Roma, le lesbiche erano tantissime, hanno continuato a non andare in televisione, ma in piazza c'erano, e poi c'erano anche, cioè, al primo Pride in cui ci siamo ritrovati non era un Pride di maschi, non lo era, c'era, era un Pride con una, diciamo, io non l'ho contato ovviamente le persone, però le lesbiche erano tante, al di là che c'era anche proprio uno spezzone solo lesbico, però c'era anche una presenza di corpi in piazza. E quindi anche sulla visibilità delle lesbiche torniamo sempre a questa cosa della visibilità mediatica delle lesbiche, perché poi invece nelle manifestazioni di piazza questa assenza o questa invisibilità a mio avviso non c'è mai stata, almeno dagli anni 90 e poi, prima diciamo che c'era anche una facilitazione, nel senso che esisteva un movimento femminista e quindi faceva sì che le lesbiche potessero scendere in piazza non dovendo necessariamente assumersi la visibilità, perché entrava nel fiume delle donne, quindi questo non era necessario, a meno che uno appunto non lo scegliesse. E quindi insomma, a mio parere c'è sempre stato un protagonismo di piazza del lesbismo, e anche lì appunto poi, perché diciamo, io ora forse mi soffermo anche troppo su questo, ma il gioco che i media fanno sui nostri movimenti e sulle nostre teste sposta moltissimo l'equilibrio in maniera non realista, non reale a mio parere. Poi smetto di parlare di media, l'ultima cosa è quella che riguarda il femminismo e la differenza a mio avviso, che è quello di cui parlava prima Vittoria. Il femminismo e la differenza che obiettivamente ha creato un sacco di problemi ai movimenti delle lesbiche in questo paese, ma anche perché il femminismo e la differenza è l'unico che ha visibilità mediatica in questo paese, è l'unico che ha spazio, è l'unico che se si vuole sentire la voce delle femministe bisogna sentire qualcuna della Libreria di Milano, la Moraro, tutto il resto non esiste sostanzialmente. E quindi non esistono neanche tutti quei movimenti femministi che invece hanno sempre, che per esempio oggi si definiscono femministe e lesbiche, per esempio. di cui la maggiore espressione sono state le manifestazioni contro la violenza maschile sulle donne del 2007 e del 2008, e cioè, lì l'invisibilità delle lesbiche effettivamente non c'era, né il rifiuto della nominazione, perché si era messa la parola lesbica anche nel soggetto che indiceva, ma non è solo quello, insomma sono tanti i femminismi che non hanno questo tipo di problema, diciamo. Quelle manifestazioni che credo ricorderete, appunto quella oceanica del 2007, quella più contenuta nei numeri del 2008, contro la violenza maschile sulle donne, sono state, come dire, un momento a mio avviso molto importante, innanzitutto perché hanno appunto introdotto rispetto al lesbismo questa novità della nominazione accanto alla parola femminista, quindi e poi perché sono stati, diciamo, un movimento che almeno nel quadro di questo paese ha rappresentato forti picchi di radicalità, di chiarezza, a cui potremo in qualche modo accedere. Mi riferisco per esempio all'esplicito rifiuto del razzismo. Vi ricorderete che la manifestazione del 2007 avvenne subito dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, la donna che fu uccisa a Roma a Ponte Milvio, insomma, ci fu una campagna allucinante sui giornali in seguito a quell'omicidio. C'era Veltroni, sindaco a Roma, furono mandate le ruspe a buttare giù tutte le abitazioni di persone rom, rumene, che abitavano lungo l'argine del Tevere. Fu fatta una campagna terrificante di caccia al rumeno, come il rumeno l'uomo violento, eccetera eccetera. Quella manifestazione si alzò con una voce veramente forte e chiara. Mi ricordo ci fu anche la prima pagina del manifesto, che diceva sostanzialmente: non il nostro nome, la violenza sulle donne la fanno gli uomini, non la fanno i rumeni, eccetera eccetera. Sì, e quindi il sottrarsi dalla strumentalizzazione e riposizionare tutto sul fatto che l'80% delle violenze sulle donne avvengono all'interno delle famiglie e sono portate avanti e sono prodotte da mariti, compagni, fidanzati, fratelli, eccetera. Quindi una potente autosottrazione dalla strumentalizzazione della soggettività femminile, femminista e lesbica da parte del potere razzista che si andava già costruendo. E questo credo che ci riallacci direttamente a quello che ci diremo dopo con Titti e Renato, perché lì c'è molto da pensare anche rispetto alla soggettività, alle soggettività LGBT e all'Europride, a mio parere, nello specifico. Mi fermerò, parlerò, voglio dire, alcune cose rispetto alla famiglia. Non dirò tutto quello che avevo pensato di dire, perché diciamo che in parte ce lo siamo già dette ieri. Quindi rispetto al fatto che quando si parla di famiglia negli anni 2000 bisogna parlare di neoliberismo, credo che sia un argomento su cui possiamo scorrere veloce, perché sostanzialmente ne abbiamo parlato anche ieri, e cioè del fatto che la distruzione dello Stato sociale e degli interventi di tipo keynesiano, così come sono stati portati avanti nel mondo, diciamo, occidentale fino agli anni 70, produce sostanzialmente una necessità di ritorno in famiglia, che è ovviamente un essere di nuovo strozzate per le donne, le lesbiche, per gay, per trans, per chiunque voglia percorrere percorsi di autodeterminazione che lo portino fuori, diciamo, dalla norma eterosessista. E appunto questo ne abbiamo parlato ieri, e quindi credo che possiamo andare un po' più veloce. E riprendo invece dal fatto che la famiglia, appunto, alla base del patriarcato è il luogo dove comincia e viene commesso il numero maggiore di violenze degli uomini sulle donne, come dicevamo ieri, violenze che sono ancora oggi lo strumento più potente di subordinazione delle donne e quindi delle lesbiche. la violenza agita o la violenza minacciata o la presenza continua nelle teste delle donne della violenza è uno strumento potente di subordinazione delle donne. Oltretutto la precarietà economica imposta appunto dal sistema neoliberista ci spinge dentro a quella famiglia dentro cui poi subiamo violenza, ma senza soldi ovviamente, per dirla in soldoni, diventa difficile. E fra l'altro noi sappiamo tutte e tutti in questo caso, come lesbiche, come gay, come trans, che i percorsi di liberazione partono sempre dall'uscita dalla famiglia, cioè non, ovviamente non c'è autodeterminazione e liberazione se resti dentro a, quelle, a quel quadro. E il, rispetto alla famiglia dirò soltanto una cosa che è già stata in parte detta ieri, cioè rispetto a questa, il fatto che il movimento LGBT, e io credo che questo sia uno degli argomenti di cui noi dovremmo parlare, ha contribuito, a mio parere, l'ho detto tante volte, l'ho anche scritto tante volte, ha contribuito a rinforzare la retorica della famiglia spostando in qualche modo, contribuendo a spostare più a destra la linea della normalità. Io questo lo credo fortemente, e lo credo fortemente non tanto perché il movimento LGBT ha portato avanti delle proposte di legge, ma per la retorica che si è assunta nel portarla avanti. Cioè a me non interessa nemmeno tanto se vogliamo chiedere o non vogliamo chiedere il matrimonio, l'unione civile, eccetera. Quello invece che mi interessa è come è stato chiesto, cioè contribuendo a quella retorica per cui la famiglia è il luogo primario degli affetti, la famiglia, senza famiglia siamo soli nomadi nel mondo, monadi, voglio dire, no, nomadi, eccetera, eccetera. La famiglia è l'opzione primaria, giusta, unica, naturale in cui crescere, eccetera, eccetera. Tutto ciò esponenti del movimento LGBT l'hanno detto di continuo in questi 20 anni, contribuendo, io non so se a spostare, ripeto, più a destra, perché voglio dire, le stesse cose si possono chiedere con altri termini. Si può dire banalmente che la società è basata economicamente su un contratto sociale che è il matrimonio, e quindi o si smantella questo sistema o si dà il matrimonio a tutti. Cioè, sarebbe già un altro modo di porre, di non contribuire appunto a questa retorica grondante veramente, che è fastidiosissima già di suo, se poi viene fatta dal movimento LGBT diventa veramente angosciante a mio parere. Scusate, ma ho fatto molta confusione tra i fogli, quindi non ce l'ho visto più assolutamente, perché disgraziatamente non ho messo i numeretti, e quindi eccolo, era qui quello che ho appena detto. E poi voglio dire, questo lo sappiamo cosa vuol dire spostare a destra la linea della normalità, perché se normali sono solo una coppia di maschi gay, giovani, palestrati e sposati, qua dentro ce ne stanno pochi. Oltretutto, appunto, cosa sarebbe questo se non lo inseriamo in una critica più serrata diciamo al tutto? L'unica soluzione diventa appunto l'ingresso diventa per alcuni e alcune di noi, soprattutto per alcuni, l'ingresso nel mondo dei privilegi, nel mondo dei privilegiati, a discapito della nostra anormalità, del nostro sguardo obliquo, della nostra felicità. Cioè quello che a mio parere è un'altra grossa responsabilità nostra, e dico nostra perché non possiamo imputare tutto ciò solo all'arcigay, perché evidentemente noi non abbiamo potuto, lo dico, cioè parlo esplicitamente, insomma, perché evidentemente chi non ha, chi come noi non ha condiviso questo tipo di impostazione non è stato in grado di renderne pubblica e leggibile un'altra, perché abbiamo letto solo quella nella società. Cioè chi è esterno a noi non sa cosa pensiamo noi, sa che vogliamo il matrimonio, punto. Quindi, e questa è una responsabilità nostra, cioè noi non possiamo occuparci delle responsabilità altrui, bisogna occuparci delle dobbiamo occuparci delle responsabilità nostre, io credo. E questa appunto è una fortissima responsabilità, come è che appunto ci sposta da quella parte. Argomenti diciamo pregnanti del movimento lesbico in questi anni, come diceva appunto prima Vittoria, e questo è estremamente importante, la critica all'eterosessualità obbligatoria, che direi che è fondante insomma del pensiero lesbico, e per questo insomma per chi non l'ha fatto, non gli è capitato eccetera, ci sono dei testi di base da andarsi a leggere. Uno è The Straight Mind di Maureen Wittig, che si trova anche su internet insomma in traduzione in italiano. È un test del 73 dove appunto Wittig ci spiega con parole molto chiare il fatto che siamo cresciute come se esistesse un'unica opzione naturale, che è quella dell'eterosessualità. In maniera più forse articolata e complessa, lo stesso discorso viene ripreso poi da Adrian Rich in un saggio che si intitola, nella traduzione italiana, Eterosessualità obbligatoria, compulsory eterosessuali, che sono, io credo, testi imprescindibili per gay, lesbiche e trans che vogliano fare politica ponendo una critica alla società, eccetera. Fra l'altro, assolutamente leggibili per tutte noi che non abbiamo, come dire, fondamenti di filosofia, o che non, nel senso, io credo che questo sia anche una cosa molto importante da sottolineare. E appunto l'ultima cosa su cui voglio soffermare è la forte connessione da una parte tra patriarcato e famiglia, essendo che la famiglia è il luogo dove si esplicano le dinamiche costruite dal patriarcato, ma anche tra famiglia e eterosessualità obbligatoria, cioè quel sistema che viene chiamato appunto da alcune eterosessismo, e che ovviamente è alla base dell'oppressione di lesbiche, di gay, di trans, ma di tutte le donne, ponendo come centrale il contratto eterosessuale. Quindi l'eterosessualità viene costruita e presentata come opzione primaria, giusta, unica, naturale, e la famiglia è il luogo dove questa eterosessualità presentata come naturale si esprime sostanzialmente. Dal sesso è stato per questo bandito tutto ciò che esce dall'imperativo dell'eterosessualità. Questo è ciò che chiamiamo eterosessualità obbligatoria, o meglio regime dell'eterosessualità. Per uscire da tutto ciò, e con questo veramente chiudo, una parte importante del lesbismo europeo e italiano in particolare, soprattutto italiano, negli ultimi 40 anni ha scelto la pratica del separatismo. Pratica del separatismo che produce grandissimi dibattiti all'interno delle lesbiche, urli e strepiti tra noi, dico. Ma io vi assicuro che è sempre una pratica di una potenza assoluta portata all'esterno, perché voi dovete pensare a delle donne che negano in una posizione pubblica l'accesso a se stesse, ai maschi. Vi assicuro che questo crea sempre un casino tremendo quando tu la metti in piazza. Vi porto semplicemente sulla pratica separatista, non voglio parlare a lungo del movimento separatista, ma porto soltanto un aneddoto che a mio parere può essere di riflessione. Quando Azione Gay e Lesbica, alla fine degli anni 90, ha avuto un finanziamento europeo per un progetto contro la violenza sulle adolescenti in base all'orientamento omosessuale, e in questi corsi, in questi progetti, c'erano anche dei corsi per insegnanti che noi organizzammo con un principio che a mio parere era veramente cristallino, cioè a tenere i corsi erano soltanto esponenti di movimento gay e lesbico, e per caso poi molti di noi comunque lavoravano nella scuola, si occupavano di scuola eccetera, perché eravamo quelli più interessati a quei temi, però noi non abbiamo chiamato nessun esperto a fare e nessuna esperta a fare questi corsi. Abbiamo tenuto i corsi dentro la sede dell'associazione, eccetera. I corsi sono andati molto bene, erano molto interessanti, ma il dibattito partiva sempre quando, siccome c'erano due parti di storia del movimento, una la teneva Gigi Malarosa del Maurice e una la teneva Giovanni Olivieri del CLI, che ora non esiste più, ma che aveva sede, insomma, la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Quando Giovanna si presentava e diceva io sono separatista, lei stava tenendo tra l'altro una lezione a un gruppo misto, non stava tenendo una lezione a un gruppo di donne, diceva io sono separatista e diceva cosa significava separatismo, le due ore dopo si discuteva di questo, perché se ci fosse stato anche un maschio solo là dentro non riusciva a non tenere impegnato un'ora al dibattito a dire ma tu perché mi neghi di poter fare le cose con te. E quindi se voi pensate la pratica del separatismo come la dichiarazione pubblica di autosottrazione da parte delle donne e delle lesbiche all'accesso maschile, va sicuro che è una pratica che ha una sua potenza. Anche, scusami, la famosa manifestazione del 24, la prima sì. Che ho citato, era stata pensata come occupazione del corpo delle donne, no? Della piazza e della strada, sì, e i compagni sui lati potevano manifestare ai lati. E ci furono tanti problemi anche. Sì, e io direi che con questo.